I walk the line. Allora, nel frattempo, insomma, forse c'è un groviglio di cavi. Sì, ci perderemo fefo tra il groviglio di cavi. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. No, io mentre suonavi, cercavo di tradurre in parole quello che provavo ascoltando. Vabbè, un po' di parole l'ho scritte, ma cosette, non è che. Cioè, non, niente di che, insomma. Però primordiale. No, mi. Il tuo set, insomma, mi ha fatto pensare a un'energia primordiale liberata. Può essere. Ah, sì. Ah, sicuramente richiami poli qualcosa. No, di energie, sì, energie sicuramente che abbiamo tutti sostanzialmente dentro, quindi in quel senso sì. No, ma anche con richiami, poi non so, noi abbiamo quest'idea della storia, no? Un po' allora, primordiale, primitivo, queste cose un po'. No. Sì, no. No, dico senza entrare quindi nelle sovrastrutture storiche. Certo, certo. Sì, in quel senso sì. No, più diciamo che è una liberazione. Vabbè, anche un po' come erano, come so, poi alla fine i riti di qualsiasi tipo, che religiosi. Sì, ma senza. Ma anche. Cioè, non so che sto dicendo, cose. Ma neanche io. No, nel senso. Senza andare nello storico, no? Poi una cosa, qualcosa che ci abbiamo tutti, sì. Che ci nasciamo. Quello e sicuro. Se vedi dei bambini, insomma, giocare, fanno anche questo, no? Cioè si giocano caoticamente e si liberano nel loro modo primordiale. Sì, e sono pure inquietanti spesso e volentieri i bambini, quindi possiamo pure dirlo, no? Sì, sì. Nel loro essere appunto non sovrastrutturati, quindi tirano fuori, no, tutti quegli aspetti che uno tendenzialmente nella società, nella vita normale, non lo so, reprime, nasconde, eccetera eccetera. No, è per questo, è proprio per questo che ho voluto poi passare Johnny Cash, perché c'avevo bisogno di sicurezze, no? Di sovrastrutture. No. Sì, no. Boh. A me piace Johnny Cash, ma a parte no, ma anche a me. Però mi dà sicurezza. Mentre sì, però insomma non è manco un cantautore così, no più che scontato, secondo me delle sicurezze, insomma c'è ben eh sì, ci sono? Pronto? Sì, sì. Non mi sento in cuffia, vabbè. No, avrei voluto parlare col microfono di Cassandra, mi sarebbe piaciuto molto di più quello con cui produce. Ma è ancora attaccato, sarebbe sì è ancora attaccato, però abbiamo messo il microfono. Ti è venuta voglia pure a te, insomma, di liberarti? Certo. No, vabbè, ma quello è quello che facciamo in realtà noi ogni volta, ognuno ha il suo stile, ha il suo metodo, ha la sua il suo percorso, insomma, per arrivare poi alla espressione, alla liberazione, all'arte, mettiamola come ci pare. Cassandra, come sei arrivata a produrre questi suoni? Io immagino, poi dirai sì, no, però tappeto di casa, una stanza di casa, marchingegni appena comprato, pedale, effetto, eccetera, eccetera, voglio provare, e poi ore di sperimentazione con il rischio che il vicinato, non so quanto è vicino, poi te busse. Dai, andiamoci a fare l'aperitivo, no, c'ho da fare, ma dai, che scendi, viene, no, c'ho abbiamo da immaginato, c'ho da... vediamo quanto ci abbiamo azzeccato e quanto invece. No, in realtà mi sarebbe piaciuto che fosse andata così, andare soprattutto per rompere le palle ai miei vicini, così, gratuitamente. No, in realtà no, perché Cassandra è un progetto di approdo. Cioè, nel senso, sono andata indietro invece sono tornata indietro musicalmente come percezione. Cioè, io ho cominciato tantissimo tempo fa a suonare e facevo musica elettronica, cioè le cose più proprio incasellabili della storia del forma più o meno canzone, già un po'. Per carità, ci ho avuto sempre ascolti un pochino storti, come. Quindi partivo da quello. Poi ho messo su un altro gruppo in cui comunque facciamo cose di forma canzone anche lì molto storte, roba demenziale, però non c'entra niente, cioè in realtà in qualche modo ci potrebbe anche entrare in realtà, come un demenziale. Però ancora in cui c'è una forma. Sì, c'è una forma storta anche lì, però comunque c'è una forma canzone. No, invece dopo un periodo un po', diciamo, particolare della mia vita, un po' buio, come ce l'abbiamo avuto, io penso, tutti, cioè ho bisogno proprio, detta strettamente, ad andare in sala e sfogarmi. Gli effetti ce l'ho sempre avuti, giocare coi suoni in realtà mi è sempre piaciuto, quindi dall'elettronica agli ascolti alle cose, cioè un po' di pedali, un po' di effettini che usavo con la chitarra per fare quello che facevo con, quello che faccio tuttora con Godog e quello che facevo all'epoca con le Batty Boom. E ho detto, va, prima di impazzire, vediamo se la musicoterapia auto, vediamo che succede. E ho cominciato ad attaccarci la chitarra, la voce, tutto quello che mi capitava in due amplificatori, quello da basso e quello da chitarra. Quello da basso perché mi piacciono tanto le medio-basse come frequenze. E non l'ho fatto a casa, ma l'ho fatto in sala, la sala mia dell'epoca, perché c'ho voglia pure un po' di alzare il volume, di sfogarmi, di strillare. Purtroppo in casa non credo che avrei possibile. Esatto, avrei buttato un attimo giù le pareti, mo qua mi so contenuta perché dopo, però all'inizio avevo un muro di suono. E da lì poi ho visto che piano piano, dopo un po' di, in realtà ho cambiato pure un sacco di nomi, quindi prima mi chiamavo in altri modi, e quindi come se il personaggio si fosse evoluto in qualche modo, e alla fine sono approdata a questo nome che mi piaceva per tutta una serie di motivi, Cassandra, e ha un'evoluzione finalmente di una sua forma, anche se sembra informe, quindi una sua dinamica, una sua... E ho trovato in Antonio, che è, diciamo, colui che tira avanti la mia etichetta, che è Angst, una persona interessata a, insomma, a spingerlo anche questo progetto, quindi a fare delle cassette, delle cose. Con lui e Massimo abbiamo registrato delle cose, ognuno con i suoi progetti solisti, diciamo, di questo noise, però molto personale, insomma, potremmo aprire 3000 parentesi. E da là poi ho cominciato a girare, a suonare, insomma, sempre stata abituata a girare, quando giri da solo fai ancora meno fatica a trovare date e a doverti rapportare, se non solo con te stesso, e quindi piano piano Cassandra ha preso la sua forma, diciamo. Quindi alla fine, no? Insomma, diciamo che l'armamentario che ha portato questa sera Cassandra è abbastanza variegato, cioè diversi marchi ingegni, strumentazioni varie. No, a livello di costo, no? Sì. Cioè, costa meno avere questo armamentario o andare dallo o andare dallo psicoterapeuta? Ma in realtà la mia pedaliera non costa tantissimo e le mie chitarre non sono mai costate tantissimo, neanche i miei ampli. Quello perché ho l'occhio lungo sulle offerte di mercatino musicale, Thomann, eccetera. No, vabbè, in realtà adesso qualche acquisto nuovo oggi l'ho sfoggiato, ma quello perché comunque Cassandra è un progettino che un minimo si autosostenta, quindi riesco a comprarmi i cavi, le cose nuove, così. Per fortuna per noi, No, come attrezzatura da radio siamo al solito molto scarsi. Tra l'altro, no, qualcosa me l'hanno prestato, dai. Okay, cioè, infatti, quel condensatore me l'ha prestato il caro Nanne, che grazie. Salutiamo e ringraziamo. E poi l'ampli da basso, il caro Davide, che saluto e ringrazio. E no, per il resto, pedalini, una chitarra acustica che ho da quando ho 14 anni. Bellissima, sì. E invece là l'altro oggetto, che sì, poi degli oggetti spaghetti, vabbè, per fare spaghetti a chitarra, sì. Vabbè, era dei miei nonni, quindi comunque tutto in casa. L'amplino, quello Orange, pure quando cominciò a suonare la chitarra, quindi dai, insomma, però un Orange, beh, cioè, un orangino, giallero, orangino, vabbè. Piccolino. Quindi alla fine qualche microfono a contatto, uno è dei Tony Godrone, e niente quindi è un atto di liberazione che consigli, insomma. Comunque, Ma guarda, in generale usare la voce e liberarsi con la voce o comunque con oggetti, cose, poi ognuno, cioè c'è pure il bricolage, non è che bisogna per forza, però fondamentalmente sì, usare la voce o comunque in un certo modo a me mi comunque, diciamo, non è un'operazione che è, diciamo, originale tua, ovviamente, perché già ci sta un'esperienza e un una modalità di suonare oggetti che è lunga almeno 40 anni, insomma, per quanto ne so io, cioè quella di suonare degli oggetti che non sono proprio degli strumenti, cioè di fare in maniera tale che alcuni ammennicoli che hai anche sfoggiato qua e che gli ascoltatori hanno potuto soltanto ascoltare, ma noi per fortuna anche vedere, e qui ci piace perché rosicate. Diciamo non è nuovissima, però c'è sicuramente una modalità tutta tua poi di interpretare il rapporto con questi oggetti, insomma. Quello sì, no, nel senso, quello in tutto, cioè voglio dire, se qua stiamo a inventare cose nel 2015 stiamo freschi tutti quanti. Il discorso è che riprendi delle esperienze passate e te le rimoduli come vuoi tu. Però volevo dire una cosa, che questa in realtà che ho fatto qui con gli oggetti, le cose, è un set che ho pensato per la radio, nel senso che di stato possono il mio set oggetti. Non è così, no, il mio set, vabbè, al momento il mio set classico è chitarra elettrica, pedali, alcuni non li ho portati perché era inutile per insomma per questa situazione, e microfoni a contatto no, ultimamente li sto usando comunque sì sul corpo, insomma cose così, e però ho aggiunto delle piccole cose che sono più da appunto elettroacustica, che è quella, diciamo, l'esperienza di cui parlava lui, è proprio l'elettroacustica, cioè quella di utilizzare oggetti con i microfoni a contatto eccetera. E però per renderlo un po' meno di impatto brutale, perché di solito io invece ho 2 mega ampli, a un certo punto un muro di suono quando, insomma, quando lo posso fare, quindi io l'ho un po' rimodulato per una situazione, insomma, un adattamento radiofonico e anche per i vicini, diciamo, qui che non è che ci tenevamo a farci ammazzare così, no, diciamo brutalmente, ecco. No, diciamolo per gli ascoltatori e le ascoltatrici che sono all'ascolto, appunto, no, Cassandra usa questi microfoni a contatto. E come un sacco di noiser, eh? Le usa a contatto, cioè, tutti, no? Nel senso, a contatto proprio con la pelle, con il proprio corpo, con le proprie vibrazioni, insomma, per cui servono proprio per ripetere alcune vibrazioni del corpo. Sì, io li uso così, poi c'è chi non li usa così, no, li usa in altri modi, tantissimi, mille modi, chi si costruisce i microfoni da solo, chi gli oggetti che poi ci attacca i microfoni a contatto, la voglia, ognuno può fare un mondo da indagare, da viaggiare. Se uno volesse cominciare a giocare con i microfoni a contatto è abbastanza facile farseli, quindi potete farlo anche da voi da casa, come provateci, insomma. Quindi una prossima trasmissione possiamo fare invece didascalica su come si usano i microfoni a contatto, uso comune, oppure... i microfoni a contatto, e si produce un suono variegato e personalizzato. Ma i rumori più belli ce l'abbiamo in casa, pensate alle lavatrici, alle lavastoviglie. Questo era il mio side project e volevo tipo campionare domestici, campionare, no, solo lavatrici, lavastoviglie, insomma oggetti che lavano, quelli che lavano, Justice Clean, così si chiama. Abbiamo capito, cioè, sì. giustizia pulita, ovviamente è una gag, non è, però sarebbe stata, cioè lo farei, però non ci andrei poi in giro, cioè è difficile portarsi le lavatrici, già uno si porta gli ampli, figuratevi 4-5 lavatrici o lavastoviglie. Allora, no, mi incuriosivo un po', cioè quando proponi questi set in giro, no? Poi hai un'attività live, però non la buttiamo in caciara, dai, assolutamente, cioè, era una domanda, se ci provo, poi no, perché la tendenza è quella, poi tra l'altro lei accetta molto, no serissima, scherzi, no, nel anche senso... gli sciacquoni dei bagni fanno dei rumori bellissimi, il mio ultimamente, se poi possiamo andare a tirare la catena, sì, di là, no, mi stavo chiedendo se il cavo del microfono arriva di là, certo, in bagno, certo. Dovrebbe arrivarci, ci proviamo, no, vabbè, poi ci possiamo provare a campionare per lo sciacquone. Fidatevi. Vai. Poi quando cominciano a arrancare, tipo quello del bagno di casa mia, più sono rotti e meglio vanno. Ma fa dei canti a metà tra veramente canti tibetani, tipo dei monaci tibetani, e del noise bellissimo. Dipende come gli prende quando scarica. Però, vabbè, comunque. Cioè, questi set, insomma, cioè, stiamo parlando di Cassandra, ci stiamo spendendo un po' in parole su quello che è un po' il set di Cassandra. Io ero incuriosito invece su chi ti viene ad ascoltare. Sì, No, dico, cioè le... sulle espressioni, cioè a livello emotivo, no? Insomma, sì. Tu come li inquadri questi ascoltatori e queste ascoltatrici di Cassandra? Era del sì, noise, vabbè. Per stare in casa. Vabbè, per sentirci ancora un po' in casa. Ma in realtà, guarda che io, avendo e venendo da un'attitudine, da degli ascolti e da un, insomma, un vissuto legato molto all'ambiente dell'hardcore, degli scopi, cioè non è che mi ascolto solo quello, mi ascolto tuttora anche quello, poi c'ho un posto, si chiama Il Dal Verme, quindi facciamo cose molto trasversali, quindi uno sembra, ah, ma ascolto un po' di tutto, no, è così, e volente o nolente sto in dei giri abbastanza variegati, ecco, diciamo. Gli ascoltatori sono molto variegati, perché io... No, ti dico perché... Aspetta, no, mo ti spiego. Aspetta, no, vediamo se ho capito la domanda. Siccome suono spesso in ambienti diversi, perché suono in uno squat in cui magari si fa crust, oppure in un locale invece più settato sulla sperimentazione, o in dei posti in cui invece proprio si fa magari questo tipo di noise, quindi sperimentale, però comunque con un certo tipo di attitudine, bla bla bla. Oppure i salotti della gente, perché anche cioè, quando giri da solo può capitare di tutto, insomma, dal salotto allo squat al locale figo, al teatro. Come? Scusa, no, ha citato un po' di storie, cioè i salotti, che sono una cosa ben precisa, lo squat è un'altra cosa ben precisa, il teatro addirittura è una cioè, cosa teatro, istituzionale, cinema. No? Qualcosa, beh, cioè uno spazio quasi deputato a fare spettacolo. Più... No, a me piace. Un auditorium. Tendenzialmente gli squat, alcuni squat, no, io proprio a casa mi trovo in certi squat proprio in cui c'è una mentalità abbastanza, e ce ne stanno, trasversali, già un pochino aperti al noise, o in dei posti in cui ho delle, insomma, forti amicizie radicate, dico proprio a livello di... Oppure puoi incontrare anche resistenze, diciamo, da parte di... Sì, a voglia, assolutamente. E... o nelle piccole associazioni culturali, quindi diciamo così, sempre gestite comunque da persone che più o meno la pensano come noi, vabbè, boh, senza divagare, sì, comunque tendenzialmente associazioni culturali e squat sono... No, no, stop. Comunque. Era una voglia di confronto, quella la mia domanda, perché ascoltando il tuo set io ho avuto dei momenti di un qualcosa riconducibile a una... paura primordiale, che è la paura dell'ignoto, nel senso proprio questo allontanarsi dalle sovrastrutture. Mm-hmm. Cioè, sai, ma noi qui in trasmissione di musica ne passiamo parecchia, di generi diversi, no? Dal punk hardcore allo space rock, chi più ne ha più ne metta, come si dice, però insomma sempre rientrando in generalmente nelle strutture canzone, no? Quindi come reagisce il pubblico quando senso io ho questo come dire, non sapere quello che viene nel secondo successivo, no? Ok. Nella progressione poi del tuo set, sì. Mi ha generato una sorta di cioè mi viene in mente paura, però smarrimento. Smarrimento, okay. Ecco, uno smarrimento, no. Così di fronte proprio all'ignoto, no? Che è un'emozione interessante, quindi mi chiedevo se è una cosa che il tuo pubblico riscontra, oppure è una fobia mia che insomma dovrei analizzare, insomma. Ma in realtà tu hai detto, allora il discorso è che suonando in molti posti diversi tu il pubblico che ti trovi davanti tendenzialmente si può o meno aspettare qualcosa da te, no? Ovviamente quando suono un po' fuori contesto, ma fuori contesto che vuol dire? Magari gente, appunto, in una serata io suono spesso pure con i gruppi hardcore, gruppi che tendenzialmente, diciamo, a livello di suono, no? Dico, vabbè, non c'entra niente, poi non è neanche vero, vabbè. Però che te devo dire, suono con un gruppo hardcore oppure suono con un gruppo magari invece più intellettuale, perché ci sta pure quell'altro che lascia la medaglia, facendo questo tipo di cose puoi suonare anche con persone che fanno sperimentazione, ma in un'altra maniera, totale altra maniera, quindi puoi avere un pubblico un pochino più, come dire, incasellato, mettiamola così, in qualcosa di più intellettuale. E stranamente in realtà, quando io non mi aspetto nessun tipo di pubblico, cioè né A né B né C, ma un pubblico X, mi è capitato un po' di volte proprio di dire ma io sto andando a suonare a sto posto, boh, boh, aiuto, o comunque poi si metteva a strana situazione, dice vabbè ma qua ma non gliene frega niente, te stanno a sentire a me. Invece sono state le situazioni dove c'è stata più attenzione emotiva, esattamente perché la gente non si aspettava niente, esattamente perché la gente si interessava, si teneva incollata dall'atmosfera, quindi evidentemente non aveva sovrastrutture, quindi anche gente che non ascolta musica magari è forse il miglior ascoltatore per me, cioè nel senso gente che magari appunto non ne ascolta poi così tanta, magari mi vede dal vivo e rimane colpito. E ti potrò dire che tra i due concerti più assurdi, sei in due posti occupati, vabbè, uno ad Empoli, situazione completamente strana, cioè pubblico anche molto piccolo, parlo di 15-16 anni, dove dico mo che succede, invece si sono chiusi la tenda che divideva dal bar, si sono cominciati tutti a sedere, erano pure tanti, tutti così, e alla fine presi benissimo, era a Vostok, ho detto e ci sono rimasta molto contenta, con i ragazzi piccoli mi venivano a fare domande sui pedali, sulle cose, su. E a Padova in uno squat alla Marzolo, e una cosa organizzata da Fremen, quindi comunque il Veneto rimane secondo me uno dei posti più interessanti. In un punto io ero in mezzo a tutti i gruppi proprio dei matrice hardcore, emocore, in cui la gente viveva fisicamente come se fosse un concerto hardcore le cose che facevo, quindi pure lì a fine serata tutti a fare domande, cose, presi benissimo dalla situazione, ed erano appunto incuriositi e presi bene proprio da questo senso di sospensione, quindi di... E poi io penso semplicemente quello che magari poi è successo invece più a Empoli, ma anche a Padova, proprio una questione tipo emotivo, cioè se tu emotivamente entri in connessione con me, poi io comunque vario, cioè i miei set non sono mai uguali, questo te lo può dire chi mi ha visto più volte, dipende tantissimo da, cioè pure ci sta addirittura chi mi ha visto più volte, è incredibile. Dice, cioè, dipende molto anche dall'ambiente, cioè l'ambiente mi restituisce qualcosa che io poi come uno specchio gli ributto addosso. È un ambiente strano come può essere quello di una radio? Ma alla fine è stato in realtà come... non c'è un pubblico, ma c'è questa cosa qua che è sempre un po' come dire, misteriosa, insomma, te parli a delle persone ma in realtà queste persone non le vedi, non ci sono, non c'è un contatto fisico, un media. Ti dico, io me la so vissuta un po' come se fossi stata a casa mia, quindi proprio semplicemente come stavo a casa, tacco, vabbè, e vai. Però insomma, alla fine comunque sì, rispetto dei canoni anche da live. Era proprio quello lì. Cosa ti aspetti dal pubblico? Me la ripeti un attimo la domanda? Perché a me era venuta che se la ricorda. A lei. Non la domanda che ha fatto a me, la domanda che ha fatto a lei. Dice, io ho avuto uno smarrimento. Sì, no, un senso di smarrimento. Di paura dell'incognito, di quello che verrà dopo. No, guarda, poi, c'è una. E poi hai domandato a lei, dice, ma come reagisce il pubblico? Riscontri questa stessa mia. Ecco, te riscontri mai mentre stai suonando? E l'hai detto, tra l'altro, è anche abbastanza, tutto sommato, è un, così, una correlazione anche abbastanza immediata, intuitiva da fare. Cioè, i miei live set non sono mai uno uguale all'altro, si vedeva anche nella modalità, appunto, in cui poi alla fine c'è una parte, sicuramente. Poi questa è un'altra domanda, casomai, schema improvvisazione, come. Però te invece ce l'hai mai una sorta di smarrimento? Cioè a un certo punto il flusso delle emozioni e dei suoni che produce e che riproducono queste emozioni, a un certo punto si inceppa mai? Cioè c'è mai un momento in cui dici adesso cosa faccio, come vado avanti, come continuare la cosa, o c'è sempre l'idea successiva? Ormai sei in è una forma di possessione, tutto sommato. Magari è una parola un po' è una parola un po' magari che fuorviante per certi aspetti, però possessione nel senso di immedesimazione con quello che stai facendo, che con il suono e quindi la manipolazione artigiana, artistica, mettila come te. No, guarda, scusa se ti interrompo. Sì. Una delle parole che ho scritto mentre ascoltavo il set di Cassandra è appunto medium. Che non ha niente a che vedere con l'occultismo o cose del genere, però. Sì, perché poi queste parole sono pesantissime, però hanno un senso invece molto più semplice, molto più tranquillo, molto più normale che quello. Vabbè, a te, perché sennò parliamo noi. No, momenti di smarrimento. Vabbè, in realtà dopo un po' scusa, c'ho il microfono che feedback. No, che è proprio scherzoso. No, c'è il cavo che. Facciamo usare il mio, dai, che forse vai. Oh! Va, vedi? Basta toccarlo forte. No. Nelle interviste degli allenatori, dai. Esatto. E una parte. Allora, aspetta, calma, una cosa a volta. Non mi confondo. Allora, lo sbarrimento. Allora, nei primi set o quando provo delle cose nuove un po' ci può stare, ma dipende tantissimo dalla concentrazione. Quindi se è un pubblico meno interessato, la performance tendenzialmente è meno fluida. E torniamo al discorso per cui io un po' lo sento e mi deconcentro. Sì, tipo queste cose sì che sembrano un po' soprannaturali, però in realtà è scambio di energie normalissimo. No, perché è strano la tua percezione appunto di questo scambio, perché tu sei molto concentrata su tutta la strumentazione e aggeggi vari, no? Cioè, come l'avverti? Sì, ma è come uno strumento. Cioè, nel senso, dopo un po', anche avere tante macchinette diventano uno strumento in più che hai. Tutto lì. Cioè, nel senso, è come suoni la chitarra, lo fai in maniera, appunto, tipo trance, lo fai in autonomia quando comunque diventi bravino o bravetto con la chitarra o con la voce o quello che è. E c'hai solo uno strumento in più, questo è i pedali. E dopo un po' li conosci bene, quindi conosci il tuo set, conosci perfettamente cosa risponde a quello che fai nel momento in cui lo fai, che ti viene, non ci pensi. È così. E questo tipo di performance, sì, usando tanto. Ma poi sai cos'è? Usando anche la voce, poi pure il fatto che mo oggi mi sono sforzata magari anche meno, di solito urlo molto di più perché ho questi amplificatori enormi. Io vado proprio in. Te dico, non so se mi manca l'ossigeno al cervello, però qualcosa di molto simile. Infatti spesso esco proprio dalle performance un po' che ho quei 20 minuti in cui mi si può fare, cioè non riesco a interagire con gli esseri umani, quindi è abbastanza normale. E, no, comunque tendenzialmente sì, ci sono dei canovacci o comunque decido di partire da, poi comunque tendenzialmente la dinamica è partire, poi si scende, si svuota, poi si riempie, poi si risvuota a seconda di, poi appunto sempre dalla situazione, però è un'improvvisazione, è quasi sempre comunque ha dei pattern, perché dopo un po' te li crei ed è un'improvvisazione. E qualche volta, se pensi un po' troppo come quando suoni, magari ti puoi inceppare perché stai pensando a quello che devi fare, invece non devi pensare a quello che devi fare, devi farlo, basta. Differente invece quando faccio le impro collettive, perché vabbè, questo magico mondo poi ogni tanto ti porta a fare delle impro con altre persone, che è una cosa molto divertente. Io là tendenzialmente uso la voce e gli effetti molti di meno, perché ovviamente è inutile caricare poi so impro pure a 5 persone, cose, E là più di una volta qualcuno mi ha detto: guarda, sembri posseduta, sei quella posseduta, perché lì invece vado proprio, ascolto solo gli altri e quindi vado dietro agli altri, e quindi ho i miei momenti di silenzio, di cose in cui proprio non penso, e quindi è come se fosse un grande gruppo in cui io seguo gli altri. Si crea quel momento di coscienza e intelligenza collettiva, insomma, diffusa, sì, quelle reti invisibili che sì, in realtà uniscono tutte le nostre vite, che comunque ci stanno, che poi chiamiamo con nomi diversi, ma... Ma in realtà le impro collettive di tipo noise, di questo tipo qua, secondo me sono perfette quando poi stabilisci proprio un legame emotivo di scambio che appunto non è neanche molto visibile con gli altri, cioè nel senso con le persone con cui le fai. Noi di Angst facevamo questa cosa appunto delle impro a 3, delle impro a 4, delle impro a 5, cioè nel senso si sente quando sono le impro noi che... c'è, sì, c'è proprio una coscienza emotiva, cioè nel senso molto più che con gli altri, è ovvio. Invece poi è pure interessante invece farlo con, interessantissimo farlo con persone diverse, perché poi ti tirano fuori cose che non avresti tirato fuori con altri, quindi è, in realtà è fondamentale, cioè fare le impro su queste cose con gli altri, insomma con gente che non conosci, è fondamentale, perché poi in realtà sviluppi un altro tipo di legame, fai cose diverse. Insomma, quello che avevamo iniziato prima dicendo, proprio iniziando, è un gioco tutto sommato, cioè se finisce il gioco, com'era? Il gioco con Palea Candela. No, il gioco con Palea Candela, quello dei duri del gioco dei Blues Brothers, com'era la faccenda? Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, oppure quando... viceversa, che era quando il duro si fa gioco, allora i giochi cominciano a durare. Beh, è una forma, cioè, è una forma appunto espressiva libera, e quindi questo già ti aiuta, perché no, non devi, dei bambini prima dei, sì, dei, sì, ragazzi, esatto, insomma, è gioco, esatto, è una forma di appunto di espressione libera in cui appunto, cioè, c'è un'interazione ovviamente emotiva data da un'esperienza che magari il bambino non ha o ha limitata. Una tecnica espressiva che uno sviluppa per forza, certo, di cose, certo. Però fondamentalmente sì. Da una manualità più capace, un intelletto più sviluppato, come dici, insomma, tante cose. Sì, sì, certo. Stacchetto musicale? Stacchetto, sì, musicale, cassa, sì. Dai. Che abbiamo, prima vi abbiamo fatto quasi un'ora di Cassandra live. Sì, adesso, un 40 minuti. Adesso una mezz'oretta, sì, sì, di chiacchiere. Ho detto, dai, 20 minuti, hai capito? Sì, no, no, no, ci siamo, sì, sì, no, no, ci siamo, no, prima pure c'eravamo. Può darsi. Lo rifacciamo? Un pezzetto. Oh, Mastello che stanno a fischiare orecchie. Ciao Fabri. Fabri. No, vabbè, Fabri. Insomma, parlavamo di grande radio, di grande attitudine alla radio e niente, di come alcuni individui oltrepassano le barriere anche fisiche. Del malessere fisico pur di esprimersi attraverso l'etere, e uno di questi è il grande Fabri, e questa è 25 o'clock, la 25esima ora, l'ora inventata, l'ora rubata ai ritmi del consumo e della produzione, quindi ma, qui ma non rubata faccio, a chi? Non rubata, basta, rubata. Però non ti senti in colpa per questo? Ma guarda, io penso non mi sento in colpa rispetto a nessun tipo di furto. Bene. Ritengo eticamente no, proprio rispettabilissimo il occhio ai pedali, Cassandra. E vabbè. 0649 1750, se volete contribuire a questa dissertazione, insomma, della 25esima ora. Nel frattempo, insomma, niente, Cassandra, progetti futuri. Ma questa è la domanda migliore che fa. Allora, il futuro non esiste innanzitutto. Cominciamo con. E se esiste? E se esiste, famoso se impacco da fare, no? Se dovesse esistere. Vabbè, esatto, Cassandra, oh, parliamo in italiano corretto, cortesemente. Chiedo scusa. No, e niente, no, vado a... Allora, brevissimo, aspetta, devo fare un check delle cose. Venerdì siamo a Napoli, se qualcuno ci stesse ascoltando da Napoli, perché, appunto, perché parlavamo Napoli, proprio di Napoli. Perché Napoli è una delle... Sì, è vero, tra l'altro. una delle città più, ah no è vero, siamo i microfoni spenti, scusa, una delle realtà più interessanti su quella che è la sperimentazione noise, assolutamente non di moda, in maniera inaspettata di moda, poi. No, perché c'è anche la moda, regà, cioè esiste questa cosa, esiste anche sulla destrutturazione, cioè come tutti a un certo punto leggevano Soran o che ne so io, dice oh boh, anche quello può diventare moda, quindi attenzione, attenzione, attenzione. Ma perché Napoli è già una città di per sé destrutturata? È destrutturata per forza di cose, però le persone che ne fanno parte hanno delle motivazioni molto elevate, il disagio veramente necessario per fare cose interessanti, quindi è una, appunto dicevo, insieme Veneto, che è un'altra realtà abbastanza interessante, ecco, diciamo in un altro modo, sono realtà appunto destrutturanti carine, quindi suoniamo al 76A, che è un circolo anarchico di Napoli, in cui si fanno appunto concerti, appunto rimaniamo sempre, no, concerti hardcore e concerti noise, perché poi come già forse avevo detto in radio più di una volta, tantissimi che sono partiti dall'hardcore, da tutta una serie di discorsi, sono sfociati quasi naturalmente nel noise e quindi la destrutturazione più totale di quello che è la musica, o comunque udire rumori. E suoniamo con i Mother Dolores, che è appunto un gruppo di Napoli in cui ci sono dentro sia Peppe che Francesco Dignola Joy de Vivre, e Peppe Archivio Diafonico, ci sono due etichette appunto di Napoli che producono cose di tipo noise tra le più variegate, quindi siamo molto contenti di suonarci insieme, e vado giù con il mio compare Antonio di Angst, appunto della mia etichetta, e suonerò come Cassandra e come Malastrana, che è un progetto che ho con Antonio, che è nato un po' dalla passione di entrambi per l'horror e il giallo italiano anni 70, e quindi è un po' diverso, ho dei nastri, non uso la voce come qua, o solo urla poco più strutturato, ma in realtà no, perché non proviamo mai, quindi diciamo ci diamo dei canovacci anche lì e via, no, però insomma appunto entra l'elemento Antonio che fa le sue cose, vabbè lui ha un progetto a Happy Death, però non suona dal vivo da solo, fa solo cose registrate, e poi invece ha dei progetti collettivi appunto, e questo è il nostro progetto collettivo Happy Death. Happy Death, che è la traduzione in inglese di un libro di Camus, abbastanza banale, però in realtà no, banale ma non banale, appunto torniamo alle mode, sì, una felice morte, e sempre molto allegri siamo. Malastrana invece è il titolo diciamo per il mercato americano di un film di Aldo Lado, che è La corta notte delle bambole di vetro, e il film parla appunto di queste persone che muoiono ma non sono morte, sembrano morte ma in realtà sono coscienti ma sono morte, quindi qua potremmo aprire mille parentesi, però sì, diciamo è tratto da, il nome è tratto da questo film, e per chi è appassionato di horror italiano sicuramente lo conoscerà, sia a livello di insomma il bel cinema italiano, sempre rimanere in tema. Senti, invece da queste parti, da Roma e dintorni? No, Roma non la vedo a breve, con Cassandra no, non credo, e almeno a meno che non viene fuori qualcosa. No, perché sempre con Antonio facciamo un giro. Allora, la solita cosa, state. Se volete, cioè Cassandra. Viene qua, in calotto, in salotto. Ci stanno i contatti. I contatti. I vostri progetti. Sì, allora, non mi ricordo niente. Però se googolate, no? Perché ormai siamo nell'era del facile googolare, cercate Cassandra Noise, trovate il mio SoundCloud, credo. O se no cercate Angst cioè angst, proprio l'angst, quella tedesca, l'ansia tedesca, però che non è proprio l'ansia, vabbè, la angst tedesca, A-N-G-S-T, st, oppure vabbè, insomma, angst noise, etichetta italiana, trovate delle mail a cui scriverci, se no c'è il famoso Facebook che ormai dilaga, quindi o scrivete a Claudia Raiboom, e tanto conoscono tutti, o a Antonio Niet, che anche quello sono i nostri nomi così, e insomma se... e avete una, vabbè, insomma, strana. Googolando qualcosa si trova, non è un problema. No, volevo dire che a fine mese andiamo invece al nord, sempre con Antonio. Bene, facciamo giro, no, facciamo un giro angst, no, suoniamo a Milano al Macao il 26 marzo, che è un giovedì, a Torino da confermare, non so dove, però a Torino, ciao Fabri. Uè Fabri. A Torino, e il 28 di marzo, che è sabato, a Bologna, a Modo Info Shop, all'orario però aperitivo, perché si fanno presto i concerti lì, che stiamo dentro un palazzo, quindi, però lì suono solo con Malastrana, invece negli altri due posti, sia come Cassandra che come Malastrana. Comunque suono in botto un giro. Cioè, sì, perché sono tornata da abbastanza. Diciamo che quasi tutti i mesi qualche data fuori si fa. Poi aprile mi fermo perché c'ho il Dal Verme e un bel po' di cose tipo Talassa e altri festival da fare. Beh, comunque conciliandoli il lavoro e le cose, sì. Comunque, appunto, dicevo, girare da soli è molto più comodo che girare con gli altri, quindi poi i treni, boh, non lo so, sono belli da prendere. I treni. Ok, sì. Tenete un orecchio che qualcosa si muove. Qualcosa si muove. Sì, anche in Italia, se qualcuno ascolta e mi vuole invitare, tendenzialmente accetto. Possiamo parlarne. No, vabbè, se poi volete riascoltare il set di Cassandra lo potrete trovare sul sito della radio prossimamente. Ma davvero? Ma no? Abbiamo stoppato là la cosa. Ah no, no, ci sono ancora le nostre chiacchiere, ma andrà in integrale anche le nostre chiacchiere. No, vabbè, no, insomma, solo il set di Cassandra lo potrete trovare. E chiacchiere no, insomma. Chiacchiere no, chiacchiere distintivo. Chiacchiere. No, niente. Va bene. Mezzanotte e 30, e noi ringraziamo Cassandra, allora, e grazie. A risentirci a presto, insomma, dai, in qualche maniera ogni tanto qualche destrutturazione ne abbiamo bisogno anche noi, dai. E noi c'ho una domanda. Vai. Chi è che smonta tutto? Indovina. Va bene. Ok. Indovina chi? Indovina chi? Autogestione, autoproduzione, auto tutto. Va bene, noi niente, ci lasciamo per i saluti finali tra qualche minuto, lasciamo bene, un po' di musica. Mo butto io due cosette. E mo ci pensa il professore, a più tardi.